Ad alta voce. Maria Paiato legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Chi avrebbe mai detto a Renzo, qualche ora prima, che nel forte d'una tal ricerca, al cominciar dei momenti più dubbiosi e più decisivi, il suo cuore sarebbe stato diviso tra Lucia e Don Rodrigo? Eppure era così. Quella figura veniva a mischiarsi con tutte le immagini care o terribili che la speranza o il timore gli mettevano davanti a vicenda. In quel tragitto le parole sentite a piedi quel covile si cacciavano tra i sì e i no onde era combattuta la sua mente, e non poteva terminare una preghiera per l'esito felice del gran cimento senza attaccarci quella che aveva principiata là e che lo scocco della campana aveva troncata. La cappella ottangolare che sorge elevata ad alcuni scalini nel mezzo del lazzeretto era, nella sua costruzione primitiva, aperta da tutti i lati, senz'altro sostegno che di pilastri e di colonne. Una fabbrica, per dir così, traforata. In ogni facciata un arco tra due intercolonni. Dentro girava un portico intorno a quella che si direbbe più propriamente chiesa, non composta che d'otto archi, rispondenti a quelli delle facciate, con sopra una cupola. Di maniera che l'altare, eretto nel centro, poteva essere veduto da ogni finestra delle stanze del recinto e quasi da ogni punto del campo. Ora, convertito l'edificio a tutt'altro uso, i vani delle facciate son murati, ma l'antica ossatura, rimasta intatta, indica chiaramente l'antico stato e l'antica destinazione di quello. Renzo s'era appena avviato che vide il padre Felice comparire nel portico della cappella e affacciarsi sull'arco di mezzo del lato che guarda verso la città, davanti al quale era radunata la comitiva, al piano, nella strada di mezzo. E subito, dal suo contegno, s'accorse che aveva cominciata la predica. Girò per quelle viottole per arrivare alla coda dell'uditorio come gli era stato suggerito. Arrivatoci si fermò cheto, lo scorse tutto con lo sguardo, ma non vedeva di là altro che un folto, direi quasi un selciato di teste. Nel mezzo ce n'era un certo numero coperte di fazzoletti o di veli. In quella parte ficcò più attentamente gli occhi, ma non arrivando a scoprirci dentro nulla di più, li alzò anche lui dove tutti tenevan fissi i loro. Rimase tocco e compunto dalla venerabile figura del predicatore e, con quel che gli poteva restar d'attenzione in un tal momento d'aspettativa, sentì questa parte del solenne ragionamento. Diamo un pensiero ai mille e mille che sono usciti di là. E col dito alzato sopra la spalla accennava dietro sé la porta che mette al cimitero, detto di San Gregorio, il quale allora era tutto, si può dire, una gran fossa. Diamo intorno un'occhiata ai mille e mille che rimangono qui, troppo incerti di dove sian per uscire. Diamo un'occhiata a noi, così pochi, che n'usciamo a salvamento. Benedetto il Signore, benedetto nella giustizia, benedetto nella misericordia, benedetto nella morte, benedetto nella salute, benedetto in questa scelta che ha voluto far di noi. Oh, perché l'ha voluto, figliuoli, se non per serbarsi un piccol popolo corretto dall'afflizione e infervorato dalla gratitudine, se non a fine che, sentendo ora più vivamente che la vita è un suo dono, ne facciamo quella stima che merita una cosa data da lui, l'impieghiamo nell'opere che si possono offrire a lui, se non a fine che la memoria dei nostri patimenti ci renda compassionevoli e soccorrevoli ai nostri prossimi. Questi intanto, in compagnia dei quali abbiamo penato, sperato, temuto, tra i quali lasciamo degli amici, dei congiunti, e che tutti son poi finalmente nostri fratelli, quelli tra questi che ci vedranno passare in mezzo a loro, mentre forse riceveranno qualche sollievo nel pensare che qualcheduno esce pur salvo di qui, ricevano edificazione dal nostro contegno. Dio non voglia che possano vedere in noi una gioia rumorosa, una gioia mondana d'avere scansata quella morte con la quale essi stanno ancor dibattendosi. Vedano che partiamo ringraziando per noi e pregando per loro, e possan dire: anche fuor di qui questi si ricorderanno di noi, continueranno a pregare per noi meschini. Cominciamo da questo viaggio, da primi passi che stiam per fare, una vita tutta di carità. Quelli che son tornati nell'antico vigore diano un braccio fraterno ai fiacchi. Giovani, sostenete i vecchi. Voi che siete rimasti senza figliuoli, vedete intorno a voi quanti figliuoli rimasti senza padre. Siatelo per loro. E questa carità, ricoprendo i vostri peccati, raddolcirà anche i vostri dolori. Qui un sordo mormorio di gemiti, un singhiozzio che andava crescendo nell'adunanza, fu sospeso a un tratto, nel vedere il predicatore mettersi una corda al collo e buttarsi in ginocchio. E si stava in gran silenzio, aspettando quel che fosse per dire. «Per me», disse, «e per tutti i miei compagni, che senza alcun merito siamo stati scelti all'alto privilegio di servir Cristo in voi, io vi chiedo umilmente perdono se non abbiamo degnamente adempito un sì gran ministero. Se la pigrizia, se l'indocilità della carne ci ha resi meno attenti alle vostre necessità, men pronti alle vostre chiamate, se un'ingiusta impazienza, se un colpevol tedio ci ha fatti qualche volta comparirvi davanti con un volto annoiato e severo, se qualche volta il miserabile pensiero che voi aveste bisogno di noi ci ha portati a non trattarvi con tutta quell'umiltà che si conveniva, se la nostra fragilità ci ha fatti trascorrere a qualche azione che vi sia stata di scandalo, perdonateci. Così Dio rimetta a voi ogni vostro debito e vi benedica». E fatto sull'udienza un gran segno di croce, si alzò. Noi abbiamo potuto riferire, se non le precise parole, il senso almeno, il tema di quelle che proferì davvero. Ma la maniera con cui furono dette non è cosa da potersi descrivere. Era la maniera d'un uomo che chiamava privilegio quello di servir gli appestati, perché lo teneva per tale, che confessava di non averci degnamente corrisposto perché sentiva di non averci corrisposto degnamente, che chiedeva perdono perché era persuaso d'averne bisogno. Ma la gente, che s'era veduti d'intorno quei cappuccini non occupati d'altro che di servirla, e tanti n'aveva veduti morire, e quello che parlava per tutti, sempre il primo alla fatica, come nell'autorità, se non quando s'era trovato anche lui in fin di morte, Pensate con che singhiozzi, con che lacrime rispose a tali parole. Il mirabil frate prese poi una gran croce che era appoggiata a un pilastro, se la inalberò davanti, lasciò sull'orlo del portico esteriore i sandali, scese gli scalini e, tra la folla che gli fece rispettosamente largo, s'avviò per mettersi alla testa di essa. Renzo, tutto lacrimoso, né più né meno che se fosse stato uno di quelli a cui era chiesto quel singolare perdono, si ritirò anche lui e andò a mettersi di fianco a una capanna e stette lì, aspettando, mezzo nascosto, con la persona indietro e la testa avanti, con gli occhi spalancati, con una gran palpitazione di cuore, ma insieme con una certa nuova e particolare fiducia, nata, credio, dalla tenerezza che gli aveva ispirata la predica e lo spettacolo della tenerezza generale. E stando così, col capo appoggiato alla parete di paglia d'una delle capanne, gli vien da quella all'orecchio una voce. «Oh cielo, è possibile! Tutta la sua anima è in quell'orecchio! La respirazione è sospesa! Sì, sì, è quella voce!» «Paura di che?» diceva quella voce soave. «Abbiamo passato ben altro che un temporale. Chi ci ha custodite finora ci custodirà anche adesso.» Se Renzo non cacciò un urlo, non fu per timore di farsi scorgere, fu perché non ne ebbe il fiato. Gli mancarono le ginocchia, gli s'appannò la vista, ma fu un primo momento. Il secondo era ritto, più desto, più vigoroso di prima. In tre salti girò la capanna, fu sull'uscio, vide colei che aveva parlato, la vide, levata, chinata sopra un lettuccio, si volta essa al rumore, guarda, crede di travedere, di sognare, guarda più attenta e grida: «Oh Signore benedetto! Lucia, v'ho trovata, vi trovo, siete proprio voi, siete viva!» esclamò Renzo, avanzandosi tutto tremante. «Oh Signor benedetto!» replicò ancor più tremante Lucia. «Voi, che cosa è questa? In che maniera? Perché la peste l'ho avuta. E voi? Anch'io? E di mia madre?» «Non l'ho vista perché è a pasturo, credo però che stia bene. Ma voi, come siete ancora pallida, come parete debole! Guarita però siete guarita! Il Signore m'ha voluto lasciare ancora qua giù! Oh Renzo, perché siete voi qui?» «Perché?» disse Renzo, avvicinandosele sempre più. «Mi domandate perché? Perché ci dovevo venire? Avete bisogno che ve lo dica? Chi ho io a cui pensi? Non mi chiamo più Renzo, io non siete più Lucia, voi. A cosa dite? Cosa dite? Ma non v'ha fatto scrivere mia madre?» «Sì, purtroppo m'ha fatto scrivere. Belle cose da fare, scrivere a un povero disgraziato, tribolato, ramingo, a un giovine che dispetti almeno non aveva mai fatti. Ma Renzo, Renzo, già che sapevate, perché venire? Perché? Perché venire? Oh Lucia, perché venire? Mi dite, dopo tante promesse, non siamo più noi, non vi ricordate più che cosa ci mancava? Oh Signore!» esclamò dolorosamente Lucia, giungendo le mani e alzando gli occhi al cielo. «Perché non m'avete fatta la grazia di tirarmi a voi? Oh Renzo, cosa avete mai fatto? Ecco, cominciavo a sperare che col tempo mi sarei dimenticata.» «Bella speranza, belle cose da dirmele proprio sul viso. A cosa avete fatto in questo luogo, tra queste miserie, tra questi spettacoli, qui dove non si fa altro che morire? Avete potuto? Quelli che muoiono bisogna pregare Dio per loro e sperare che anderanno in un buon luogo, ma non è giusto neanche per questo che quelli che vivono abbiano a vivere disperati. Ma Renzo, Renzo, voi non pensate a quel che dite? Una promessa alla Madonna, un voto! E io vi dico che son promesse che non conta nulla. Ah, signore, a cosa dite? dite? Dove siete stato in questo tempo? Con chi avete trattato? Come parlate? Parlo da buon cristiano e della Madonna penso meglio io che voi, perché credo che non vuol promesse in danno del prossimo. E se la Madonna avesse parlato, allora, ma cos'è stato? Una vostra idea? Sapete cosa dovete promettere alla Madonna? Promettetele che la prima figlia che avremo le metteremo nome Maria. Che questo son qui anch'io a prometterlo. Queste son cose che fan ben più onore alla Madonna. Queste son divozioni che hanno più costrutto e non portan danno a nessuno. No, no, no, no, non dite così. Non sapete quello che vi dite. Non lo sapete voi cosa sia fare un voto. Non ci siete stato voi in quel caso. Non avete provato. Andate, andate per amor del cielo. E si scostò impetuosamente da lui, tornando verso il lettuccio. Lucia, disse Renzo senza muoversi. Ditemi almeno, ditemi, se non fosse questa ragione, sareste la stessa per me? Oh, uomo senza cuore, rispose Lucia voltandosi e rattenendo a stento le lacrime. Quando m'aveste fatte dir delle parole inutili, delle parole che mi farebbero male, delle parole che sarebbero forse peccati, sareste contento? Andate! Oh, andate, dimenticatevi di me. Si vede che non eravamo destinati. Ci rivedremo lassù. Già non ci si deve star molto in questo mondo. Andate, cercate di far sapere a mia madre che sono guarita e che anche qui Dio m'ha sempre assistita, che ho trovato un'anima buona, questa brava donna che mi fa da madre. Ditele che spero che lei sarà preservata da questo male e che ci rivedremo quando Dio vorrà e come vorrà. Andate, per amor del cielo, e non pensate a me se non quando pregherete il Signore. E come chi non ha più altro da dire né vuol sentir altro, come chi vuol sottrarsi a un pericolo, si ritirò ancor più vicino al lettuccio dove era la donna di cui aveva parlato. Sentite, Lucia, sentite, disse Renzo senza però accostarsele di più. No, no, no, no, andate, per carità. Sentite, il padre Cristoforo. Che? È qui. Qui? Dove? Come lo sapete? Gli ho parlato poco fa. Sono stato un pezzo con lui. E un religioso della sua qualità, mi pare. È qui per assistere i poveri appestati, sicuro. Ma lui l'ha avuta la peste. Ah, Lucia, ho paura. Ho paura, purtroppo. E mentre Renzo esitava così a proferir la parola dolorosa per lui e che doveva esserlo tanto a Lucia, questa s'era staccata di nuovo dal lettuccio e si ravvicinava a lui. Ho paura che l'abbia adesso. Oh, povero sant'uomo! Ma cosa dico, povero uomo? Poveri noi! Com'è? È a letto? È assistito? È levato. Gira, assiste gli altri. Ma se lo vedeste, che colore che ha, come si regge! Se ne visti tanti e tanti che, purtroppo, non si sbaglia. Oh, poveri noi! E è proprio qui! Qui, e poco lontano, poco più che da casa vostra a casa mia, se vi ricordate. Oh, Vergine Santissima! Bene, poco più. E pensate, se abbiam parlato di voi, m'ha detto delle cose, e se sapeste cosa m'ha fatto vedere, sentirete. Ma ora voglio cominciare a dirvi quel che m'ha detto prima lui, con la propria bocca. M'ha detto che facevo bene a venirvi a cercare e che al Signore gli piace che un giovine tratti così e m'avrebbe aiutato a far che vi trovassi, come è proprio stato la verità. Ma già, è un santo, sicché, vedete, ma se ha parlato così è perché lui non sa. Che volete che sappia lui delle cose che avete fatte voi di vostra testa, senza regola e senza il parere di nessuno? Un brav'uomo, un uomo di giudizio come lui, non va a pensar cose di questa sorte. Ma quel che m'ha fatto vedere. E qui raccontò la visita fatta a quella capanna. Lucia, quantunque i suoi sensi e il suo animo avessero in quel soggiorno dovuto avvezzarsi alle più forti impressioni, stava tutta compresa d'orrore e di compassione. E anche lì, proseguì Renzo, Ha parlato da santo. Ha detto che il Signore forse ha destinato di far la grazia a quel meschino. Ora non potrei proprio dargli un altro nome, che aspetta di prenderlo in un buon punto. Ma vuole che noi preghiamo insieme per lui. Insieme, avete inteso? Sì, sì, sì. Lo pregheremo, ognuno dove il Signore ci terrà. Le orazioni le sa mettere insieme lui. Ma se vi dico le sue parole, ma Renzo, lui non sa. Ma non capite che quando è un santo che parla, è il Signore che lo fa parlare. E che non avrebbe parlato così se non dovesse essere proprio così. E l'anima di quel poverino? Io ho bensì pregato e pregherò per lui. Di cuore ho pregato, proprio come se fosse stato per un mio fratello. Ma come volete che stia nel mondo di là il poverino, se di qua non s'accomoda questa cosa? Se non è disfatto il male che ha fatto lui? Che se voi intendete la ragione, allora tutto è come prima. Quel che è stato, lui ha fatto la sua penitenza di qua. No, Renzo, no, no. Il Signore non vuole che facciamo del male per far lui misericordia. Lasciate fare a lui per questo. Noi, il nostro dovere è di pregarlo. Se io fossi morta quella notte, non gli avrebbe dunque potuto perdonare. E se non sono morta, se sono stata liberata, è vostra madre. Quella povera Agnese che m'ha sempre voluto tanto bene e che si struggeva tanto di vederci marito e moglie, non ve l'ha detto anche lei che lei è un'idea storta? Lei che v'ha fatto intender la ragione anche dell'altre volte perché in certe cose pensa più giusto di voi? Mia madre! Volete che mia madre mi desse il parere di mancare un voto? Ma Renzo, non siete in voi! Oh, volete che ve la dica? Voi altre donne queste cose non le potete sapere! Il padre Cristoforo m'ha detto che tornassi da lui a raccontargli se v'avevo trovata. Vo, lo sentiremo, quel che dirà lui. Sì, sì, andate da quel sant'uomo. Ditegli che prego per lui e che preghi per me, che n'ho bisogno tanto, tanto, ma per amor del cielo, per l'anima vostra, per l'anima mia, non venite più qui a farmi del male, a tentarmi. Il padre Cristoforo, lui saprà spiegarvi le cose e farvi tornare in voi. Lui vi farà mettere il cuore in pace. Il cuore in pace! Oh, questo levatevelo dalla testa! Già me l'avete fatta scrivere questa parolaccia. E so io quel che m'ha fatto patire. E ora avete anche il cuore di dirmela. E io invece vi dico, chiaro e tondo, che il cuore in pace non lo metterò mai. Voi volete dimenticarvi di me. E io non voglio dimenticarmi di voi. E vi prometto, vedete, che se mi fate perdere il giudizio, non lo racquisto più. Al diavolo il mestiere, al diavolo la buona condotta. Volete condannarmi a essere arrabbiato per tutta la vita? Ed arrabbiato viverò. E quel disgraziato, lo sa il Signore se gli ho perdonato di cuore. Ma voi volete dunque farmi pensare per tutta la vita che se non era lui, Lucia, avete detto che io vi dimentichi. Ch'io vi dimentichi. Come devo fare? A chi credete che io pensassi in tutto questo tempo? E dopo tante cose, dopo tante promesse, cosa v'ho fatto io dopo che ci siamo lasciati? Perché ho patito? Mi trattate così? Perché ho avuto delle disgrazie? Perché la gente del mondo m'ha perseguitato? Perché ho passato tanto tempo fuori casa, tristo, lontano da voi? Perché al primo momento che ho potuto son venuto a cercarvi? Lucia, quando il pianto le permise di formar parole, esclamò, giungendo di nuovo le mani, alzando al cielo gli occhi pregni di lacrime: «Oh, Vergine Santissima, aiutatemi voi. Voi sapete che dopo quella notte un momento come questo non l'ho mai passato. M'avete soccorso allora, soccorretemi anche adesso». «Sì, Lucia, fate bene di invocar la Madonna. Ma perché volete credere che lei, che è tanto buona, la madre delle misericordie, possa aver piacere di farci patire? Me almeno, per una parola scappata in un momento che non sapevate quello che vi dicevate. Volete credere che v'abbia aiutato allora per lasciarci imbrogliati dopo? Se poi questa fosse una scusa, se è ch'io vi sia venuto in odio, ditemelo, parlate chiaro. Oh, per carità, Renzo, per carità. Per i vostri poveri morti, finitela, finitela, non mi fate morire. Non sarebbe un buon momento. Andate dal padre Cristoforo, raccomandatemi a lui, non tornate più qui, non tornate più qui. Voi, Ma pensate, se non voglio tornare, tornerei se fosse in capo al mondo, tornerei! E disparve. Lucia andò a sedere, o piuttosto si lasciò cadere in terra accanto al lettuccio, e appoggiata a quello la testa, continuò a piangere dirottamente. La donna, che fino allora era stata a occhi e orecchi aperti, senza fiatare, domandò cosa fosse quell'apparizione, quella contesa, questo pianto. Ma forse il lettore domanda dal canto suo chi fosse costei. E per soddisfarlo non ci vorranno neanche qui troppe parole. Era un'agiata mercantessa di forse 30 anni. Nello spazio di pochi giorni s'era visto morire in casa il marito e tutti i figliuoli. Di lì a poco, venutale la peste anche a lei, era stata trasportata al lazzeretto e messa in quella capannuccia nel tempo che Lucia, dopo aver superata senza avvedersene la furia del male e cambiate ugualmente senza avvedersene più compagne, cominciava a riaversi e a tornare in sé. Che, fin dal principio della malattia, trovandosi ancora in casa di Don Ferrante, era rimasta come insensata. La capanna non poteva contenere che 2 persone, e tra queste 2, afflitte, derelitte, sbigottite, sole in tanta moltitudine, era presto nata un'intrinsechezza, un'affezione, che appena sarebbe potuta venire da un lungo vivere insieme. In poco tempo, Lucia era stata in grado di poter aiutar l'altra, che s'era trovata aggravatissima. Ora che questa pure era fuori di pericolo, si facevano compagnia e coraggio e guardia a vicenda. S'eran promesse di non uscir dal lazzeretto se non insieme e avevan presi altri concerti per non separarsi neppur dopo. La mercantessa, che, avendo lasciata in custodia d'un suo fratello commissario della sanità la casa e il fondaco e la cassa, tutto ben fornito, era per trovarsi sola e trista padrona di molto più di quel che le bisognasse per viver comodamente. Voleva tener Lucia con sé, come una figliuola o una sorella. Lucia aveva aderito. Pensate con che gratitudine per lei e per la provvidenza. Ma soltanto finché potesse aver nuove di sua madre e sapere, come sperava, la volontà di essa. Del resto, riservata com'era, né della promessa dello sposalizio né dell'altre sue avventure straordinarie, non aveva mai detta una parola. Ma ora, in un così gran ribollimento d'affetti, aveva almen tanto bisogno di sfogarsi quanto l'altra desiderio di sentire. E, stretta con tutte e 2 le mani la destra di lei, si mise subito a soddisfare alla domanda, senz'altro ritegno che quello che le facevano i singhiozzi. Renzo intanto trottava verso il quartiere del Buon Frate. Con un po' di studio e non senza dover rifare qualche pezzetto di strada, gli riuscì finalmente ad arrivarci. Trovò la capanna. Lui non ce lo trovò, ma ronzando e cercando nel contorno lo vide in una baracca che, piegato a terra e quasi bocconi, stava confortando un moribondo. Si fermò lì, aspettando in silenzio. Poco dopo lo vide chiudere gli occhi a quel poverino, poi mettersi in ginocchio, far orazione un momento e alzarsi. Allora si mosse e gli andò incontro. «Oh!» disse il frate vistolo venire. «Ebbene, la c'è! L'ho trovata! In che stato? Guarita! O almeno levata!» Sia ringraziato il Signore.